Radio Plaza. Sigla! C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case, le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case e gli angeli non danno appuntamenti. E anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti. Senza proprietà. E allora di chi è la libertà? Di nessuno, è naturale, di tutti non banale. Si sa, ma non si fa. Eccoci qua, sveglia, murata, rinnegata, murata, abbandonata, dimenticata e poi riscoperta, ripulita, ritrovata, trasformata. La stazione rinata. O caporali, siamo simili e libertari. Giù queste mani, qui non si scherza, senza padroni. La lotta si fa dura. Libertà, ideale, rivoluzione e bellezza. Senza padroni non c'è dittatura. Servono tutte, idee e azione, mani sapienti e immaginazione, ci vogliono tutti, partecipazione. Lo spazio è libero, a disposizione, senza padroni e senza vergogna. Chi realizza quello che sogna, porta un'idea, aggiunge colori, costruisce una sedia, scrive canzoni, organizza una festa, invita persone, dipinge un muro, pianta un fiore. Chiunque può farlo, senza distinzioni. Stazione Utopia è senza padroni. E allora è chiaro, lo Stato è assente, mistifica e mente al popolo demente. Ma a Stazione Utopia, per anni sospesa, la libertà che abbiamo ce la siamo ripresa! di nuovo Radio Plaza al primo maggio 2019, Stazione Utopia. Primo maggio, occhio all'ingranaggio. Quarta edizione 2019, questa è Radio Plaza, la radio pazza che in piazza e spiazza e incazza continuamente. E impiazzando, spiazzando, siamo arrivati a questa quarta edizione. Brevemente vi racconto che cosa è successo stamattina. Ci sono stati laboratori per i bambini, c'è stato con la Little Free Library di via Aliberti numero 76. Benissimo. E ci sono state le danze aeree, i laboratori con il Gabri Circus e poi gli stand per tutta la giornata. Bene, quindi primo maggio, occhio all'ingranaggio. Occhio a quale ingranaggio? A tutti gli ingranaggi, in quanto tutti facciamo parte del problema della macchina che incombe, sbuffa e pressa e che ti spinge al consumo di roba inutile e dannosa. Bene, eccoci in attesa qua. del concerto la puntata della radio ospiterà, insomma, poi vi rappresenteremo tutte le persone presenti al tavolo. Sì. Intanto però musica. Che cosa ci sentiamo? Merciful God di chi? King Sunny Aid dall'album 7 Degrees North del 2000. Questa è Radio Plaza e questo è il primo maggio a Stazione Utopia 2019. Buon primo maggio a tutto, occhio all'ingranaggio. Merciful God, Baba to shole fun mi, shole fun e to shole lojojumo. Oba ko mati ko leyin, aduro mo egbo leyin asowoto. Ko je ronu ibi rara. Merciful God. Oh, Caracu, e ben caso di te, e io, e gioia. Radio Plaza, eccoci tornati e raccontiamo perché il primo maggio. Perché il primo maggio e perché primo maggio occhio all'ingranaggio. E poi perché primo maggio a Stazione Utopia. E dai, raccontiamo. Raccontiamoci perché. Dai, allora, facciamo la festa al lavoro, a quello a cui la maggior parte delle persone sembra inesorabilmente destinata a soccombere, il lavoro salariato che crea dipendenze e che negli anni ha fallito completamente gli obiettivi economici e sociali che prometteva di raggiungere. Ad oggi l'esistenza degli individui lavoratori è totalmente stravolta dal precariato. Le logiche di produzione disumane imposte dai governi e dal capitalismo mondiale hanno portato, è evidente, a un impoverimento di massa e a una crescita esponenziale delle disuguaglianze, non più sostenibile e molto pericolosa per la convivenza pacifica. Sono anni che si denunciano lo sfruttamento nei luoghi di lavoro, l'abbassamento dei salari, i disastri ambientali e quelli delle guerre prodotte dal capitale finanziario. Sono anni che si grida nelle piazze: è ora di dire basta, e lo ribadiamo, è ora di dire basta. Sì, ma come? Da dove ricominciare? Si può sfuggire al sistema imperante? Qualcuno lo ha fatto mediante l'auto-organizzazione delle produzioni, la creatività sociale, la pratica dell'autogestione. Ci sono realtà che promuovono percorsi di emancipazione e resistenza al mercato, spiriti liberi che ostinatamente mettono al centro la qualità della vita e delle esperienze, il rispetto dell'altro e della natura, l'autonomia responsabile di pensiero e azione. E di queste realtà noi cerchiamo sempre di invitarne alcune al tavolo della puntata della radio del primo maggio e delle altre puntate. Però prima di parlare con alcune di queste realtà che provano a fare ciò, già Giorgio Gaber ci aveva parlato di qualcosa del genere. Giorgio Gaber ci aveva parlato della catena di montaggio. La catena di montaggio, andiamo a vedere. Che più o meno recitava: lavoravo in quel di Baggio in catena di montaggio e giravo una ramella, sempre una, sempre quella, ed un giorno fu così che mi venne fuori un tic. Eccolo lì. Lavoravo in quel di Baggio ad un nastro di montaggio, la mia testa si girava e il motore accompagnava, per seguirlo fu così che mi venne un altro tic. Non si sta poi tanto male con un tic orizzontale, ma per colpa di un rialzo lo seguivo in un sombalzo, per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. Mi han cambiato di reparto, ma è venuto un mezzo infarto. C'era un nastro sempre in piano, ma arrivava contromano. Mi trovai un po' peggiorato, col mio tic modificato. Per poter stare a galla, mi toccò muover la spalla. Ed in più, come si vede, mi è venuto un tic al piede. Per frenare quel pedale, ero proprio messo male. Lavoravo in quel di Baggio e mi ha licenziato a maggio. Ma ha chiamato il direttore e mi fa: caro signore, con quel tic non rende niente, non vede? Sembra quasi un deficiente. Molto bene, questo era Giorgio Gaber. Era aveva già capito tutto Gaber, Giorgio che aveva Gaber. Capito già, sì. Anche prima di lui avevano già capito altri. Vabbè, comunque, quindi primo maggio, occhio all'ingranaggio, è molto chiaro quello che diceva Gaber ed è molto puntuale per quanto riguarda il concetto di occhio all'ingranaggio qui a Stazione Utopia. Ma io mi chiedo, cosa ti chiedi? Perché a Stazione Utopia? Perché? Stazione Utopia, perché? Stazione Utopia è uno spazio che era stato abbandonato, lasciato solo, e noi da un po' di anni, noi il collettivo Utopia, da qualche anno l'abbiamo, stiamo cercando di riprenderlo, di renderlo vivibile, abitabile, e invitiamo le persone del posto a vivere, ad abitare, a stare e fare in questo spazio. Perché dal letame è nato un fior, ma c'è chi lo calpesta e non se ne vergogna. Ex circumvesuviana di Marigliano, questa in cui ci troviamo adesso, immondezzaio e luogo sporco come era stato lasciato per anni da tutti, riprende vita con il collettivo Utopia nel 2013 e da allora è stato un susseguirsi di eventi culturali sempre diversi: musica, cinema, sport, consumo critico e possibili forme di autogestione, arte, teatro, creatività, fino all'idea di un centro culturale collettivo permanente. CCCP. Centro culturale collettivo permanente, uno spazio pubblico ma indipendente e autogestito per la produzione e l'innovazione culturale, a disposizione di tutte le realtà indipendenti del territorio, spazi di cui da sempre se ne sente un grandissimo bisogno, ma su cui le giunte e le amministrazioni comunali non solo arrancano, ma spesso sono da intralcio alle istanze che nascono dal basso e che per anni, autonomamente, colmano il vuoto lasciato dallo Stato macchinoso o colpevolmente assente. E allora stiamo per entrare nel vivo della puntata di oggi di Radio Plaza con i nostri ospiti al tavolo. Prima però ascoltiamo Gli Anarchici di Tête Bois dall'album Ferré, L'amore e la rivolta del 2002. Su Radio Plaza! Ma credetemi, esistono in gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capisco, sono gli tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non sono l'1%, ma credetemi, esisto, figli di troppo poco o di origine oscura, non li si vede mai che quando fa paura sono gli anarchici. Mille volte sono morti come indifferenti, con la morte nel pugno, per troppo e per niente ha gettato testardi la vita alla valora, ma non tanto colpito e colpiranno ancora. Ma credetemi, esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare, chi è che scende per strada non lo dimenticare, sono gli anarchici. La malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non sono l'1%, ma credetemi esisto, stretti l'uno con l'altro, e se loro non credi, li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Les Perfetto, allora adesso proviamo a chiamare l'Unione Sindacale Italiana, l'organizzazione nazionale di tutti, eccoli, di tutti i salariati, pensionati, precari, disoccupati. Lo dico zitto così speriamo che ci rispondano per raccontarci chi sono, che fanno, cosa vogliono, dove vogliono andare. Pronto? Eccoci, Eugenio. Pronto, ciao. Ciao, siamo il collettivo Utopia da Marigliano, in diretta su Radio Plaza da Stazione Utopia, 1° maggio, occhio all'ingranaggio, 4ª edizione. Ospiti speciali via telefono, Eugenio Dellusi Ait, quindi l'Unione Sindacale Italiana. Vogliamo fare una piccola introduzione, Anna? Io direi di farla fare a loro l'introduzione, nel senso di farci dire chi è l'Unione Sindacale Italiana, cosa fa, cosa si propone di fare. Bene, Eugenio, rispondi direttamente. Vi sento malissimo. Molto bene. Noi ti sentiamo, Eugenio, noi ti sentiamo, quindi raccontaci chi siete e cosa fate. Allora, ciao a tutti innanzitutto. Ci dispiace molto non essere là, ma diciamo che l'Unione Contadina è per il momento dislocata nelle Marche e stiamo vivendo ancora gli effetti del terremoto, quindi non io personalmente non sono riuscito ad essere presente, mi dispiace molto. L'Unione Contadina nasce nell'ottobre scorso, dopo il lavoro di circa un anno di tavoli per capire come mettere insieme tutte le realtà contadine di braccianti con una sensibilità libertaria insieme per cercare in qualche modo di riproporre sullo scenario attuale una categoria che secondo noi è assente ed è la categoria, diciamo, dei contadini autonomi, dei contadini di fatto, dei contadini e dei braccianti, quindi gli sfruttati della terra, per creare un'alleanza e riuscire in qualche modo a riproporre un qualcosa che possa assomigliare realmente ad una classe sociale. Ovviamente è un percorso che è cominciato nell'ottobre, quindi è un percorso parecchio complicato, però siamo sul pezzo, siamo attivi nelle Marche, siamo dislocati in realtà su 3 zone delle Marche che vanno dal nord al sud. In questo momento stiamo facendo un lavoro di studio sostanzialmente, di studio e di avvicinamento a quella che è la realtà bracciantile e la realtà contadina di fatto, quindi le reti contadine esistenti nel territorio. Questo è un po' quello che stiamo facendo in questo momento. Perfetto, allora non so se ora ci senti, Eugenio? Pronto? Sì. Ci senti? Sì, ci sono. Ah, ok. Allora leggiamo un attimo uno stralcio dallo statuto appunto dell'Unione Sindacale Italiana che unisce le proprie forze per l'emancipazione integrale dal privilegio del capitale fino all'eliminazione di ogni forma di sfruttamento e di oppressione dell'uomo sull'uomo per un sindacalismo rivoluzionario ed autogestionario. Al di là delle parole, come si realizza questa cosa? Come si realizza questa, come si realizza non lo sappiamo. Sappiamo che questa è... Come? Pronto? Dicevo le domande sono difficili. Certo. È chiaro. Come si realizza? Non ci stiamo, probabilmente non, in questo momento non ci stiamo chiedendo come realizzarla questa cosa. Sappiamo che l'unica prospettiva che ci voglia andare è questa qua, non altre prospettive. Infatti tu hai preso lo statuto, ma nella carta di intenti alla fine c'è scritto che noi siamo appunto per un sindacato rivoluzionario. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che vorremmo andare oltre le lotte di concertazione, oltre il mantenimento dello status quo, cioè fare sindacalismo oggi per mantenere lo stato attuale di cose a noi non basta. C'è da capire se anche ai braccianti questa cosa prima o poi non basterà più. Ovviamente noi come contadini di fatto, come allevatori di fatto, come vignaioli, come persone che lavorano come contadini dentro le cooperative sociali e tutto il resto è una cosa che abbiamo maturato. C'è da capire, questa è la grossa scommessa, se questa cosa potrà essere in qualche modo condivisa con gli sfruttati di oggi. Tra l'altro io so che lì ci sono anche i compagni del Foggiano che saluto. Sì, dovevano essere, sì, ci saranno via telefono perché non sono potuti venire nemmeno loro. Ok, li saluto ugualmente. Sì, li salutiamo tutti chiaramente, li abbracciamo via telefono. Eugenio, allora te la faccio io una domanda. Io sono Anna, siamo qui alla radio, te la faccio io una domanda... Provocatoria. No, una domanda di chiarificazione per chiarire un po' le cose. Politica. Come si fa a mettere insieme la struttura del sindacato, la struttura gerarchica, mi viene da dire, di un sindacato, con l'idea invece quella dell'autogestione, di quella parola bella che è l'anarchia? Come si fa? Si fa da più di 100 anni, nel senso che l'UGI è un sindacato anarchico. Ti posso fare un esempio: il libertario che ripudia le gerarchie. Ad esempio, laddove c'è bisogno di instaurare un rapporto di forza nei confronti del padronato, del proprio capo, del proprio padrone, non esistono le RSU, ma esistono le RSA, ovvero la differenza tra un sindacato normale e un sindacato libertario anarchico è che ognuno rappresenta se stessi. L'essere iscritti o non iscritti o militanti all'interno di un sindacato vuol dire fare un percorso di emancipazione, di autodifesa, quindi non delegare la propria difesa ad un rappresentante spesso retribuito, ok, ma fare un percorso di emancipazione e di autodifesa, ok, per diventare un lavoratore cosciente, un lavoratore che può essere rispettato sul posto di lavoro perché non manda il proprio rappresentante a difendersi, ma si difende in prima persona, rischiando in prima persona, tra l'altro. Questo è quello che differenzia l'Unione Sindacale Italiana e nella fattispecie l'anarcosindacalismo e l'autogestione da tutto il resto. E questo è quello che si differenzia tra il primo maggio a Roma e il primo maggio a Stazione Utopia Marigliano. È proprio questo, certo. È questo il senso. Perfetto, perfetto. Noi ti ringraziamo per questa telefonata. Sono queste proprio anche le parole che volevamo sentire. E quindi ti salutiamo e magari ti invitiamo qui a venirci a trovare dal vivo, di persona, da vivi. Appena possibile, sì. Io vi abbraccio tutti e buon primo maggio e viva l'anarchia, ragazzi. Evviva! E intanto ci sentiamo. 31 Lydian Collective dall'album Adventure del 2018. ritorna a Radio Plaza. Questo è Radio Plaza. Questo è il primo maggio, occhio all'ingranaggio, quarta edizione 2019, Stazione Utopia. Aprite bene le orecchie. Questa è la puntata di Radio Plaza per questa nuova edizione. Abbiamo appena ascoltato il sindacato contadino, l'Unione Sindacale Italiana. Ora al tavolo con noi c'è l'Assemblea delle Cucine Campane. Dal vivo. Dal vivo, da vivi, come ci piace finalmente dire. Finalmente vivi. Siamo vivi e la domanda è proprio elementare. La domanda è: chi siete? Che fate e cosa volete? Cosa volete soprattutto? Ma guardate, stamattina noi siamo scesi ma dovevamo andare a Pomigliano. Abbiamo preso la circumvesuviana, stavamo senza biglietto. Abbiamo incontrato il controllore, siamo scappati, abbiamo letto stazione dove siamo scesi. E siamo in salvo, siamo rimasti qua anche perché un altro treno poi non è passato, quindi siamo ancora qua. Dopodiché abbiamo letto tante belle cose, in particolare la libertà che abbiamo, ce la siamo presa. Voi avete citato anche Giorgio Gaber, io mi permetto di ricitarlo perché proprio sulla libertà diceva come le libertà concesse in realtà non generano libertà ma oppressione e non soddisfazione della propria essenza. Noi quindi proviamo a riprenderci una libertà, e la prima libertà è quella, almeno per noi, di decidere come alimentarci, come nutrirci e come organizzarci per trasformare quello che ci piace mangiare. Ma a parte gli scherzi, siamo l'Assemblea delle Cucine Campane, che è un'esperienza che è nata poco più di un anno fa e che a Napoli si è incrociata subito con un percorso che era quello della rete antifascista e per l'organizzazione del 25 aprile. Facciamo un saluto alla rete antifascista che è sempre a nostro fianco. Una volta la rete antifascista. E ha subito espresso una pratica, quella di una cucina in piazza il 25 aprile. E poi ha ritrovato uno stimolo forte nell'organizzare quello che è la quarta edizione del Festival delle Cucine a Napoli. È un'esperienza che quindi prova innanzitutto a trasformare quelle che sono le modalità di vita all'interno della metropoli ma all'interno dei territori, soprattutto nell'ambito della cucina, che è quell'ambito di sfruttamento che non ha vissuto crisi, diciamo, da parte del capitale, è quel settore produttivo che in questo paese non ha subito crisi, ma anzi è sempre in un incremento assurdo, e quindi prova a creare un modello alternativo, rompendo quelle che sono le dinamiche capitalistiche di sfruttamento e provando innanzitutto a organizzare un modo di cucinare che non sia gerarchico, dove non esiste egemonia e dove quindi non esista uno sfruttamento, dove il peso e il valore di una persona, delle sue parole e delle sue azioni vale quello quanto quello di un altro. E in questa pratica di organizzazione, di parità, di soddisfazione della propria essenza, andiamo anche a cercare di trasformare dei prodotti che non provengono dalla grande distribuzione ma sono il frutto del lavoro di produttori indipendenti che non sfruttano il suolo, non sfruttano altri esseri umani, lavoratori, ma anche non sfruttano gli animali. E da tutto ciò quindi nasce secondo noi un campo di lotta, una resistenza alimentare a tutto quello che in realtà vorrebbero farci mangiare, come vorrebbero farci nutrire e quindi poi di conseguenza ammalare. Noi soprattutto viviamo in una regione con un altissimo tasso di tumori in base anche a quello che purtroppo mangiamo, e poi andiamo anche contro nell'utilizzo poi nel cercare di non produrre rifiuti ma semplicemente scarti organici. Non utilizziamo plastica e utilizziamo tutte cose che possono essere lavate e naturalmente riutilizzate. Certo, noi vorremmo fare la rivoluzione, sicuramente, la domanda cosa fate, cosa vorremmo, però comprendiamo che nel contesto storico in cui ci troviamo, un'esperienza che sia di sottrazione a certe dinamiche, di sottrarsi a quella produzione di cibo, a quello sfruttamento, di non consumare, ma soprattutto di riappropriarsi dell'unico bisogno dell'essere umano, che è quello di mangiare e di nutrirsi in una certa maniera, in questo momento può essere un'azione di resistenza e rivoluzionare anche. Sicuramente rivoluzionare, secondo me è già rivoluzione, sottrarsi al sistema e slegarsi ogni volta che ci si riesce ai legacci della macchina globale è già rivoluzione per quanto mi riguarda. Volevo leggere un piccolo passaggio dal manifesto dell'Assemblea delle Cucine, così per divertirci un po'. Per vedere se loro lo sanno. No, loro lo sanno, quelli che non lo sanno stanno a Roma, a volte stanno anche più in alto, va bene. Allora, scrivono questi signori: una pratica di autogestione, quella delle cucine autonome, perché questa è tutta una serie di e che cosa le scatole cinesi, signori? L'assemblea contiene, vabbè. una pratica di autogestione e di resistenza alimentare libera dallo sfruttamento umano, animale e delle terre contro il capitale e le disuguaglianze sociali, con la quale vogliamo occupare piazze e strade. Questi sono rivoluzionari. Questi vogliono fare la rivoluzione. Questi sono dei rivoluzionari. Con la forchetta e il coltello. Attenzione! Questi si mangiano il capitale. Buono, lo mangiamo, lo mangiamo. No, io non me lo voglio neanche mangiare, perché lo voglio solo distruggere. Poi, non lo voglio mangiare. Secondo me il ministro dell'interno non li conosce bene. Meglio. E non li tiene in buona considerazione. Noi sì, invece, perché siamo contro l'ordine, anche noi, l'ordine imposto, chiaramente, o almeno l'illusorio ordine imposto. Ecco perché su Radio Plaza ascoltiamo in questo momento un brano di Jovanotti, un globalista enorme, ma comunque che scrive bene, secondo il mio punto di vista. Ci ascoltiamo dall'album Buonsangue del 2005, Mi disordino. I culi sotto i raggi del sole si arrostiscono, e Alice guarda i gatti scappano dai cani, all'uomo di Neanderthal gli prudono le mani, e Rift Satisfaction si soddisfa, e letto si rifà, e sognando poi si disfa, e tutto scorre senza troppe sorprese, aumentano i ricavi, aumentano le spese, normali carezze, normali torture, i soliti entusiasmi, le solite paure, i bravi da una parte, dall'altra i residivi, i morti in paradiso e nell'inferno i vivi. E più il mondo è moderno e più l'uomo diventa antico. Presentato oggi a Milano il nuovissimo modello di foglia di fico. Ma mi disordino quando ti vedo sulla soglia, mi disordino quando ti cade giù la foglia, mi disordino quando mi lanci i tuoi coltelli, mi disordino quando ti sciogli i tuoi capelli, mi disordino quando mi accogli nel tuo sole, mi disordino quando mi asciughi le parole, mi disordino quando mi butti all'aria i piedi, mi disordino quando riscaldi le mie mani, mi disordino quando intravedo la tua scima, mi disordino quando che te facciamo rima, mi disordino quando non sai che io ti guardo, mi disordino quando espo il tuo stendardo, quando trasformi l'acqua in vino, quando mi mostri il tuo giardino, quando non so che cazzo dire, quando però lo devo dire. Io mi disordino. Diritto canonico, diritto romano, diritto naturale, diritto umano. Rai, balla ballerina, il sole tramonta la sera e sorge la mattina, il super doganiere controlla le frontiere tra essere ed avere, tra patire e piacere. Mi hanno organizzato l'esistenza da quando mamma era in gravidanza, la pappa, la scuola, la cacca, la suora, il mare, il routine, gli esami, il casino, i desideri, i bisogni, la libertà, i sogni. Ed ogni estate un nuovo passo di danza, e vivo come in una gravidanza infinita, come se fossi un feto per tutta la vita, come se fossi un feto per tutta la vita. Ma mi disordino quando mi mischi le tue carte, mi disordino quando la macchina non parte, mi disordino quando gli annuso i genitali, mi disordino quando siamo come due animali, quando c'è vento tra i miei rami, quando mi mandi i tuoi richiami, quando io scio sulla tua schiena, quando mi mangia la balena, mi disordino quando mi mangia la balena, mi disordino, io mi disordino. 3 per 3 fa 9 e uguale mc al quadrato, confermato il rapporto tra i cateti e il quadrato. Un gomito che picchia sullo spigolo fa un male cane. Farina, acqua e lievito scaldati danno il pane. Il percorso più breve tra due punti è una retta. L'ostacolo più inutile tra due punti è la fretta. Gestisco il tempo come fosse un conto in banca. Quanto ne è passato? Quanto ne manca? Ma mi disordino! Centro della festa, disordino, quando scavalchi le mie mura, mi disordino, quando sorridi alla paura, mi disordino, quando spatacchi la lattina, quando mi inverti la mattina, quando confondi le mie idee, quando sconvolgi le varè, quando mi scricchiola il mio trono, quando io serpo sul suolo. c'è il ritmo nelle vene, c'è il ritmo nelle vene, c'è il ritmo nelle vene, c'è il ritmo nelle vene, c'è il ritmo nelle vene. Oh, io mi disordino, io mi disordino, io mi disordino, io mi disordino. Eccoci qua, Radio Plaza. Rientriamo ancora con Radio Plaza. Disordinatevi. Anche Radio Plaza, anche oggi è ancora un po' disordinata. Molto però disordinata. Rientriamo al tavolo. Stavamo parlando con l'Assemblea delle Cucine Campane. Abbiamo letto dallo statuto dell'USI prima del sindacato contadino, insomma, che uno degli obiettivi è l'eliminazione di ogni forma di sfruttamento e di oppressione dell'uomo sull'uomo. Abbiamo letto dal manifesto dell'Assemblea delle Cucine, ma anche dalle parole che avete detto voi, che appunto la vostra è una pratica di autogestione e di resistenza alimentare, libera dallo sfruttamento umano, animale, delle terre contro il capitale e le disuguaglianze sociali. Posso fare una domanda? Falla. Come fate? Come fate e soprattutto come si fa? Già questo piccolo periodo che avete preso dal manifesto già può essere una forma, diciamo, di una pratica che possiamo portare come esempio. Che la stesura del manifesto è partita da un'esperienza, diciamo, collettiva di riunioni dove ci siamo seduti e ogni parola che è scritta è condivisa da chiunque si è seduto ha partecipato. Quindi già in questo modo ci siamo posti in una situazione completamente uguale di parità tra le persone. Dopodiché nella nostra pratica, proprio entrando nello specifico, ci capita sempre di cucinare all'interno di posti occupati, all'interno della città di Napoli in particolare. Posti che quindi sono stati recuperati e che sono esperienze che vanno in contrapposizione a quello che è lo sviluppo della città, all'interno dei quali noi portiamo le pratiche di cui parlavamo prima. E sosteniamo queste esperienze. Lo facciamo anche con tante difficoltà, ma riusciamo a ottenere anche tanti risultati. Sicuramente lo sfruttamento umano è una cosa che non ci appartiene, perché andiamo contro quello che è la modalità di profitto e di accumulazione del capitale. E già quando tu riesci a sottrarti a questa dinamica, già ti accorgi che lo sfruttamento, e anzi il lavorare, lo stare insieme, non è più un peso, ma anzi è una felicità, è condivisione. Per lo sfruttamento animale, noi non cuciniamo carne animale. E anche lo sfruttamento dei territori, quando ci approcciamo. Carne umana ancora? Carne, ma qualche volta. Quando proprio qualcuno ancora non ci siamo. Quando arrivati. Ci sta antipatico qualcuno può essere che, però solo per pochi. Loro poi ci hanno invitati, io insomma ci penso un attimo, poi ne parliamo. Pensaci. Dopo. L'importante è pensare, poi il resto poi viene da sé. Però è importante anche il rapporto che abbiamo nella pratica con i produttori. Cioè si instaura un rapporto di fiducia con chi produce. Chi produce quello che noi trasformiamo, sappiamo perfettamente che una persona che per esempio non utilizza pesticidi, non utilizza prodotti chimici che possono inquinare e sfruttare il territorio. E da questa situazione di solidarietà, di fiducia, riesci poi a creare un sostentamento, un'alimentazione completamente diversa. E inoltre poi abbiamo una pratica che ha contraddistinto, come dicevo prima, l'esperienza dall'inizio, che è quella della pratica della cucina in piazza. Cioè stare nella strada, come diceva Deore, stare, uscire fuori, riprendersi i territori, quelli che sono oggi martorizzati, per esempio in città. Io penso da un processo di turistificazione violento che sta cambiando il tessuto urbano e anche quello esistenziale, perché poi quello che mangi ti trasforma e tu diventi altro. E inoltre, secondo me, uno degli aspetti più interessanti è la modalità con cui la nostra esperienza entra in relazione con le altre esperienze nazionali. Viene da pensare a chi è più vicino a noi come cortocircuito, oppure ancora Contadinazione in Sicilia, Fuori Mercato, Rima Flow a Milano, la fabbrica occupata. Noi tra l'altro ci rivedemo il 5 perché stiamo continuando un discorso con i produttori proprio, con tutte queste esperienze, nel cercare rete, nel rafforzarci, nel creare legami di solidarietà, perché siamo consapevoli che è difficile, ma l'istinto dell'essere umano non è la sopraffazione, non è la legge del più forte, ma è il mutuo appoggio, è la solidarietà. Allora, nell'era delle cucine dappertutto, del cucino io, del cucini tu, del cucina il VIP, del cucina il sottovip, del vengo a casa tua e vengo a cucinare, delle cucine da incubo, delle cucine di mia madre, della nonna che cucina, di Raffaele che cucina, No, questa è un'altra esperienza del cucinare. Questo cucinare va, allora, cioè, si diffonde l'idea della trasformazione di qualcosa. Vogliamo trasformare pure questa società o non la vogliamo trasformare? Lo chiedi a me o la rimandiamo a loro? Perché no, l'importante è rispondere. Ci sto. Voi che fate? La trasformiamo nel momento in cui facciamo altro rispetto a quello che è legge e ordinario. Cioè, abbiamo nominato tante cose. Io penso a tutti quei programmi televisivi che mostrano la cucina come competizione. Vai, Raffaele, come incazzo, lo chef. Vai. Lo chef che deve essere il capo, il gerarca, devi essere più bravo degli altri e i tuoi piatti e quello che produce crea una classifica, crea una gerarchia. In cui il cioè la famosa la competizione è qualcosa contro cui noi ci opponiamo, e quindi all'interno della nostra pratica creiamo un modo di cucinare, ma poi dopo anche di mangiare, perché anche dopo poi quello che è preparato con tanta passione, dopo sedersi a un tavolo e mangiarlo tutti quanti assieme e parlare mentre si mangia, confrontarsi, crea comunità, crea stare tutto quello che non esiste nel mondo del capitale. Molto bene. Per quanto riguarda... Allora, perfetto, hai nominato già, hai parlato già di qualche appuntamento. Voi rimarrete ancora qui al tavolo con noi, perché dopo dobbiamo parlare dell'appuntamento, quello importante, che di fine maggio, insomma, non anticipiamo ancora niente. Intanto però Carmine parlava di trasformazione. Sì, io parlavo di trasformazione della società, e a proposito di questo mi ricordo sempre quel famoso anno, il 1968, tutti che si ricordano il 68. Allora, nel 68 Ken Butte ha pubblicato questo disco, Mr. Rock Steady, da cui ci ascoltiamo Arti Bella, perché questa è Radio Plaza. Bella, my pretty little darling, please come home to me. Artibella, I saw you with a felon, and I don't like the idea. Artibella, you told me that you love me, there's no one else above me. Artibella, you took all my money, then told me you don't want me. Artibella, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. La la la da, Artibella, come on home. Artibella, my pretty little darling, please come home to me. Artibella, you took all my money, then told me you don't own me. Artibella, you told me that you love me, there's no one else above me. Artibella, you took all my money, then told me you don't own me. Artibella, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. La la la da, Artibella, Artibella. to call my money, then told me you don't want me. Aren't you, boy, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. Artibella, bentornati. Radio Plaza. Bentornati, Radio Plaza, oggi primo maggio a Stazione Utopia. Quarta edizione di questo primo maggio, occhio all'ingranaggio. E al tavolo con noi ci sono ancora altri amici, altri compagni. Mi piace introdurli così, almeno questo è quello che mi viene in mente pensando a loro. La pratica del sindacato contadino e anche la pratica dell'Assemblea delle Cucine, insomma, ci pare che nascano tutti dal bisogno di trovare spazio. E anche la pratica di chi nomma e chi no, a me sembra che nasca molto dall'esigenza, dal bisogno del territorio dove nascono. Ovviamente faccio dire a voi chi siete, cosa fate e soprattutto quello che voi dite è che insomma, uno degli obiettivi è di combattere le discriminazioni, gli stereotipi, favorire la partecipazione attiva e critica degli abitanti, delle associazioni, delle istituzioni in un progetto di consolidamento delle relazioni culturali, umane, emozionali, pedagogiche, interculturali e progettuali. Ammazza. Tanta roba. Significa tutto ciò e come si realizza? Che ospiti a Radio Plaza, ragazzi! Sì, allora, salve a tutti, grazie per averci invitato, siamo felici di essere qua in questa... Siamo una rappresentanza tutto sommato folta, ma diciamo non siamo tutti quelli che in realtà, diciamo, compongono il gruppo, l'anima e la squadra, e eccetera, di questo percorso che va avanti da ormai 15 anni. Sono state fatte delle citazioni importanti a questo tavolo, noi ci vorremmo agganciare subito con Ivan Illich e con l'idea di convivialità e di tavole, diciamo, di vario tipo come questa, ma anche tavole in cui a un certo punto arriva il cibo, ma soprattutto tavoli in cui potersi confrontare faccia a faccia e generosamente, no? Dando tutto se stessi in qualche modo. Questa è stata l'origine del gruppo Chi Rom e Chi No, che come potete intuire, insomma, dalla combinazione di parole è un gruppo che nasce a Scampia, quindi in piena periferia metropolitana, quindi purtroppo lontana dalle campagne, ma comunque in una zona a metà in qualche modo, perché a metà si colloca tuttora uno dei campi rom non autorizzati più antichi della città e d'Italia. Scampia è un quartiere giovane ed è un quartiere dove in qualche modo contemporaneamente sono arrivate le comunità italiane, la comunità italiana e le comunità rom, quindi un unicum, al di là, diciamo, di tutto il pregiudizio e lo stereotipo che uno può avere in mente sulla comunità rom, in realtà noi abbiamo scoperto questo tanto tempo fa, cioè il fatto che c'è una convivenza pacifica che di fatto va avanti da moltissimi anni e da prima di eventi drammatici tipo le guerre balcaniche, eccetera, proprio perché ci sono stati dei movimenti e Scampia in qualche modo è un quartiere di confine molto grande che raccoglie e ha raccolto tutti questi movimenti dalla città di Napoli ma anche dai Balcani. Quindi noi abbiamo iniziato in una baracca abusiva, in un campo rom abusivo, appunto quello di Cuba Perillo, e questa baracca costruita con gli abitanti del campo era un luogo di partecipazione e scambio, era un luogo pedagogico, laboratoriale in cui facevamo, abbiamo fatto per 10 anni laboratori con i bambini, con gli adolescenti, con gli adulti, e con il preciso obiettivo di creare relazioni tra rom e italiani in maniera completamente autogestita, autofinanziata e abusiva, appunto. Questa idea dell'abusivismo, diciamo, ci ha accompagnato e insieme a quest'altra grande parola che sta qui dietro di noi, che è l'Utopia e che è, diciamo, come dire, il nostro faro ispiratore ed è il motivo per cui in tutti questi anni, nonostante Scampia, voi potete, come dire, ciascuno di voi ha un immaginario su Scampia sicuramente. In realtà noi diciamo quasi sempre sbagliato, però spesso sbagliato, certamente un territorio faticoso, certamente un territorio povero, un territorio però ricco di giovani e di bambini, e, il quartiere più giovane d'Europa quando abbiamo cominciato noi, e in Scampia noi abbiamo trovato la possibilità di fare sperimentazioni uniche, quindi provando a ribaltare lo stereotipo sia sul quartiere e sia sulla comunità rom. Quindi partiamo da un lavoro di relazione, a partire da questo lavoro di relazione in questa baracca che ha portato, per dire, facevamo i seminari all'interno della baracca chiamata dai bambini Scuola Giungla, facevamo queste tavolate, invitavamo delle istituzioni importanti, i giudici del tribunale minorile, il prefetto in una baracca abusiva per far vedere come la gente, diciamo, era costretta a vivere, ma anche, diciamo, con quale dignità era capace di accogliere e di presentarsi ai gaggio, agli italiani. Da questo lavoro di relazione nasce il nostro incontro con la cucina, grazie alle donne del campo. Continuo? Magari continuiamo sicuramente questo argomento, continua, perché continua. Quello è quello, sì, è quello che vogliamo poi sentire ancora, perché ci hai raccontato da dove siete nati, che cosa avete fatto. Ora però, dopo magari prima l'interruzione musicale, raccontiamo un po' cosa siete ora, cosa fate ora. Ok. Intanto però ci ascoltiamo un brano. Sì, perché siamo sempre su Radio Plaza, oggi è il 1° maggio qui a Stazione Utopia. Posso fare dei saluti sparsi? No, li facciamo dopo, ci ascoltiamo questo brano. The Rivers of Babylon. The Rivers of Babylon, sì, del 1970. Grande. The Melodians, buon ascolto, questa è Radio Plaza. Radio Plaza. Radio Plaza. I'm Allora rientriamo di nuovo, stavamo parlando con Emma di Chirom e Chinò, che ci stava raccontando cosa è adesso, cosa fanno ora a Scampia, quali sono i progetti in corso, e anche a voi chiediamo dove volete andare. Ci siamo. Allora, sì, dicevamo prima che appunto nasce questo incontro con la cucina, che è stato un modo, un veicolo, diciamo, sia di superamento. Aspetta, facciamo un... Ci siamo, ecco qua. E, perché appunto, diciamo, le donne al campo facevano questa cucina, fanno questa cucina di provenienza balcanica, e con questo, diciamo, ci si presentava agli italiani e ci si presentava con i piatti più belli. Quindi noi abbiamo unito una serie di elementi. Uno era quello del superamento del pregiudizio, uno era quello della necessità di creare dei percorsi di emancipazione professionale e sociale, e di produrre delle economie. Per cui abbiamo immaginato un percorso che nasce come percorso al femminile per tutta una serie di motivi, e che ha messo insieme un gruppo di donne battagliere, direi, del quartiere italiano e Rom, che hanno creato un ulteriore gruppo che si chiama La Compagnia. Oggi Chirom e Chinò e La Compagnia vivono un nuovo spazio dal 2014 che si chiama Chicù, che è uno spazio che sorge sopra l'auditorium di Scampia. Anche quello è uno spazio in qualche modo liberato, uno spazio pubblico per il quale combattiamo da tanti anni. Per il momento ci siamo appropriati della parte di sopra, e in questa parte di sopra, che è Chicù, facciamo cucina professionale, contaminandola continuamente, quindi cucina italiana, cucina balcanica. La cucina balcanica diventa anche un po' vegetariana, perché ci sono delle esigenze qua in Italia specifiche, e quindi i piatti si devono anche loro trasformare in qualche modo, e dentro questo spazio convive però anche l'anima culturale, pedagogica, di advocacy e di supporto e di lotta alle discriminazioni e per i diritti, diciamo, di tutti. Quello che noi proviamo a fare, e concludo, è creare un gruppo di lavoro che sia sostenibile. E siccome oggi è la festa dei lavoratori, diciamo, è un tema particolarmente delicato, in un quartiere dove c'è una disoccupazione ovviamente che sfiora percentuali pazzesche, diciamo, molto più che in altre zone, ma comunque al sud Italia sappiamo bene di che stiamo parlando. Quindi crediamo che un modello del genere, che crea comunità e che si muove intorno ad un cuore caldo e pulsante che è la cucina, ma che poi attraverso l'incontro di fasce d'età molto diverse, quindi ai bambini, agli adulti, eccetera, questo possa produrre delle economie e possa in qualche modo generare dei territori sani, virtuosi, dove la gente possa, come dire, vivere dignitosamente. Hai fatto bene a citare il fatto che oggi è la festa dei lavoratori e non del lavoro, come invece negli ultimi anni hanno tentato di riscrivere questo concetto, quindi privilegiando il concetto di lavoro al concetto di lavoratore, quindi abbandonando completamente tutte quelle che sono state le lotte sociali che hanno portato appunto alle rivendicazioni, che hanno portato alle conquiste sociali dei lavoratori, per garantire appunto per non essere ripetitivi, alle aziende e ai padroni, diciamo così, la possibilità di produrre il lavoro da dare a questi lavoratori. Tutto questo ha creato, secondo il mio punto di vista, una forma di schiavitù totale, da cui difficilmente si riesce ad uscire con le pratiche diciamo classiche di avvocature e di giudici varie. Quindi l'indipendenza e diciamo la creatività sociale, appunto, può essere una via di fuga dallo stritolamento della macchina capitalista. Un'altra cosa su cui mi volevo soffermare era appunto questo pregiudizio nei confronti dei Rom. Io, diciamo, da poche persone ho potuto ascoltare dei racconti o delle storie che mi parlavano di Rom, appunto non citando i soliti luoghi comuni che si sentono intorno a questa idea. Uno di questi siete voi e l'altro è Fabrizio De André, quindi non è che vi voglio paragonare, ma comunque in qualche modo diciamo così, volevo sottolineare questo aspetto, perché spesso quando si cita Rom non si sa di cosa si sta parlando, ma inevitabilmente tutti vanno sulla difensiva. Beh, questo accostamento, no? Interessante. Ma che si è venuta da noi. E quindi insomma volete intervenire rispetto a quello che diceva Carmine, rispetto quindi a dire altro, non il solito, sulla comunità Rom? Sì, allora se qualcuno scusate, siamo vari, se qualcun altro voleva parlare. Vabbè, sarebbe interessante se Dennis venisse, proviamo a lavorare, integrare competenze, abilità, talenti personali. E Dennis è un giovane Rom proveniente da Scampia che ha fatto con la sua famiglia un grande percorso di trasformazione personale e familiare. E quindi diciamo parlare di sarebbe meglio far parlare a. Molto bene, il tavolo è aperto, il microfono pure. Speriamo. Raccontaci che... semplicemente, grazie innanzitutto, sei stato tirato dentro così, però siamo contenti di questo. Quindi raccontaci semplicemente se ti va di questa esperienza, di quello che fai tu con loro, che fate insieme, insomma. Facci cambiare idea. Facci sentire uguali. Vabbè, l'associazione Girom la conosco da quasi 15 anni, perché io ero piccolino, andavamo al dopo scuola, poi da dopo scuola da Revuto, abbiamo fatto parecchi progetti insieme alle colonie, quindi ci hanno visto un po' crescere a noi e a tutti gli altri ragazzi Rom come me. In pratica abbiamo lavorato in parecchi progetti anche insieme e tuttora io sto con loro nell'associazione Kirom e Kiku, che sarebbe la compagnia, e chi Rom e chi no. E vabbè, oggi ci troviamo qui lavorando insieme, siamo stati tutta la mattinata insieme, e per il resto se avete qualche altra domanda. No, ci ascoltiamo un bel brano, così facciamo una piccola pausa. Beh, magari ci aiutate voi a dirlo, il prossimo brano, vi va? Vi va? Perché noi magari avete la competenza che a noi manca, non lo so, potrebbe essere anche questo. Competenza linguistica? Linguistica. Ah, chiaramente. Questa è una pausa teatrale. Una pausa, silenzio. Questa è la pausa teatrale. È solo a Radio Plaza si fanno le pause teatrali, in radio, in diretta. Amari sis amaris coscolum mei kiss your hand. Molto bene, questa mille, è Radio grazie. Plaza, questa amari si amari. Thank you. Ritorniamo di nuovo qui con la Radio Plaza. Oggi 1 maggio 2019 qui a Stazione Utopia, siamo a metà puntata quasi, tre quarti. Siamo alla seconda telefonata della puntata. Ma gli ospiti sono bellissimi oggi, quanti ne abbiamo avuti? Guarda parecchi. Quanta gente, tutta ne la avremo piazza ancora degli ospiti. Altri, non vi allontanate dalla piazza, non abbandonate il vostro computer se state ascoltando la registrazione. E intanto però, mentre Carmine piano piano prova a telefonare a Campagne in Lotta, io vi racconto che la rete di Campagne in Lotta è nata con l'obiettivo di mettere in connessione lavoratori e lavoratrici che lavoravano e che lavorano e vivono in diverse aree di produzione agroindustriale italiane. Sentiamo che squilla, speriamo c'è. Rispondino, altrimenti io magari posso provare a leggere. Allora stiamo provando a contattare Walter della rete Campagne in Lotta. Eccolo. Ciao Walter. Ciao. Ciao, eccoci qua, siamo in diretta dalla piazza di Marigliano per questo 1 maggio, in diretta con voi che state al 1 maggio di Bagnoli, ho detto giusto? Sì, da Piazza Dante che stiamo intervenendo come comunità di Bagnoli a Piazza Dante. Che è più o meno là vicino, però è la stessa, per sì. Noi è la stessa cosa, ovunque il 1 maggio. Va bene Walter, allora, visto che siamo in collegamento telefonico e noi come 1 maggio, come collettivo Utopia, come Radio Plaza e come intervista siamo davvero precari, quindi andiamo al sodo, Campagna in Lotta. Chi siete? Cosa fate e cosa volete soprattutto? Quindi la storia, sì, la storia, le operazioni e gli obiettivi. Sì, io vi anticipo che non mi sento benissimo, però diciamo credo di aver capito la domanda. No, noi diciamo siamo una rete di supporto ai lavoratori e alle lavoratrici delle campagne. Quindi il nostro collettivo fondamentalmente si occupa di fornire un supporto alle rivendicazioni di chi lavora in campagna e abita all'interno dei ghetti, in particolare nelle province di Foggia e nella provincia di Reggio Calabria. Quindi quello che facciamo è supportare le rivendicazioni di tutte quelle, di quei soggetti, di tutte quelle persone che in questi anni si sono organizzati anche per lottare contro la situazione in cui si trovano, cioè la situazione in cui comunque stanno e vivono all'interno di appunto questi ghetti che sono insediamenti informali, che sono nati su tutta quanta queste due province in particolare e che ospitano le persone che lavorano in campagna e sui diritti delle persone che lavorano poi in campagna, quindi riguardo al salario, riguardo a un'abitazione, riguardo al diritto al trasporto, riguardo a un contratto e soprattutto riguardo anche alla rivendicazione di permessi di soggiorno, visto che la maggior parte di chi lavora in campagna oggi non ha un permesso di soggiorno, cosa che non gli permette di poter accedere a un regolare contratto di lavoro. Quindi sugli obiettivi, diciamo, quello che abbiamo costruito in questi anni è stato mettere appunto in rete queste esperienze che sono anche, diciamo, di territori diversi tra loro, anche spesso lontani, e di provare a costruire anche rivendicazioni comuni. Negli anni siamo riusciti a mettere in piedi comunque svariate anche mobilitazioni che hanno messo anche all'angolo le questure locali rispetto a una serie di rivendicazioni che portavamo avanti, e anche, diciamo, nel prossimo prossimamente torneremo un'altra volta in piazza insieme appunto agli abitanti dei ghetti. Va bene, come possiamo contattarvi nel caso qualcuno è interessato a prendere informazioni, ad approfondire il discorso con voi? Allora, noi abbiamo un sito internet che è www.campagnaellotta.org, a cui potete, diciamo, dove si possono sfogliare anche tutto il materiale che abbiamo prodotto in questi anni, che abbiamo prodotto anche vari vademecum che riguardano tutti appunto i diritti rispetto alla regolamentazione rispetto ai permessi di soggiorno. Abbiamo una serie di manuali anche che abbiamo costruito e che sono gli strumenti con i quali ci interfacciamo con le persone che abitano nei ghetti. E poi sulla pagina Facebook, che è Comitato Laboratori delle Campagne, dove poi postiamo anche tutte le iniziative che facciamo. Va bene, allora lasciamo Walter al suo primo maggio lì a Piazza Dante. Salutiamo tutti quelli che sono in Piazza Dante. Ce li saluti tu, Walter? Sì, sì, certo. Molto bene, abbracciaci tutti. Grazie. Siamo quindi per questo intervento qui alla prossima Radio Prata, magari dal vivo. Vi aspettiamo, sì, qui in piazza Stazione Utopia Marigliano. Intanto andiamo avanti con la musica, con Looking Out My Back Door, Creedence Clearwater Revival, Cosmos Factory 1970. Radio Plaza. Radio Plaza, primo maggio 2019, dove i pezzi si ascoltano fino alla fine e non sia mai ci parli sopra, vabbè, ma questo vai a parlare sopra i pezzi, parliamoci sopra noi, parliamo ancora di quello che stavamo dicendo. Sì, abbiamo avuto una brevissima telefonata con quelli di Campagne in Lotta, con Walter di Campagne in Lotta, li ringraziamo ancora. E volendo ritornare appunto alla questione del bisogno del territorio, parlavamo prima con Chirom e Chinò e con la loro esperienza anche di Kikù, dello spazio occupato, di quanto, cioè di uno spazio che è reso di nuovo vivo. Quindi, come il vostro lavoro, cosa succede nel territorio con il vostro lavoro? Qual è la ricaduta del vostro progetto sul territorio? Allora, è una ricaduta sicuramente lenta e inesorabile, però, nel senso che è un piccolo modello di, appunto, come dicevamo prima, comunità che a partire da passioni, competenze e anche, diciamo, dall'amore del lavoro di gruppo, mettiamola così, che è quella cosa, diciamo, che ci unisce, perché ovviamente tutti noi, diciamo, buttiamo ben oltre il cuore, oltre l'ostacolo, e altrimenti non ci saremmo potuti sorreggere in questa giungla che è il mercato. Prima si parlava di competizione, noi abbiamo deciso di rimanere in periferia, nonostante questo ci possa creare e abbia creato nel tempo un certo isolamento e anche un vero e proprio boicottaggio, perché appunto il pregiudizio di cui si parlava prima pesa molto, no? Quindi noi abbiamo fatto delle scelte completamente in controtendenza e controcorrente, ma questa cosa però adesso ci sta in qualche modo ripagando, nel senso che siamo diventati un luogo dove appunto tra la cucina, tra la pedagogia, il teatro, l'intercultura e la possibilità per ciascuno di esprimersi, è un luogo dove si lavora molto, ma dove c'è un ritmo di lavoro che comunque va incontro, diciamo, ai propri tempi, ai propri spazi, ai propri desideri in qualche modo, no? E questo lo rende uno spazio vivo, non competitivo, e questo non vuol dire che non si lavori moltissimo e duramente, ovviamente. Il tempo ci ha dato ragione, perché siamo diventati un piccolo modello di riferimento, oggi vengono da tutta Italia a conoscerci e a capire se questo modello di sostenibilità e di convivenza, noi siamo, ritornando al discorso di prima, diciamo, non siamo ovviamente contrari a tutte le teorie di assimilazione culturale, che sono, siamo contrari all'idea dell'integrazione, che per noi è una parola priva di significato. Viva l'interazione tra le persone. E la convivenza anche, no? Diciamo, ciascuno con le proprie differenze e anzi facendo un recupero di un patrimonio culturale che spesso, anche quello napoletano, è completamente sopito ovviamente da un modello culturale che vuole che si consumi, che ci chiude in casa con la televisione, eccetera. Quindi ovviamente è faticoso proprio il discorso di tipo culturale che noi facciamo: scendete, riappropriatevi dello spazio pubblico, riappropriatevi della manualità, della creatività, spesso mamme e bambini, dico mamme e bambini perché è la cosa, diciamo, che succede più frequentemente, ma anche ovviamente padri, cugini e fratelli. E questa ricaduta di cui parli succede in che modo invece all'interno del campo della comunità Rom? Qual è la ricaduta del progetto invece nei tuoi occhi, nella tua esperienza? Vabbè, sui Rom ci stanno tanti luoghi comuni, no? Che sono tutte persone negative, il vederlo come una persona sporca. Non ci sono queste cose, cioè ci sono, oddio, come gli italiani, come tante altre persone, però ci sono anche dei Rom che vogliono cambiare, devono cambiare e hanno tanta voglia di cambiare, quindi dare una possibilità o più di una, quindi accettarli non così come sono, ma come devono essere accettati l'essere umano di per sé, secondo il mio pensiero. Poi un'altra curiosità che mi veniva, prima hai citato il fatto che Kiku si trova in uno spazio pubblico occupato o in qualche modo, diciamo così, concesso? No, l'abbiamo avuto e abbiamo vinto un bando comunale, era uno spazio però che nasceva come bar dell'auditorium, l'auditorium di Scampia, tra l'altro intitolato a Fabrizio De André, è uno spazio pubblico completamente negato, nel senso che noi stessi lo abbiamo aperto nel lontano 2005 con un progetto teatrale che si chiama Revuoto, che ancora oggi esiste e che va tra l'altro in scena e debutta l'11 maggio con uno spettacolo che si chiama Tutti contro tutti. E l'auditorium però diciamo non ha l'assenza dell'istituzione, il vuoto e la lontananza dal centro. Vuol dire che per quello spazio non esiste una programmazione culturale, non è mai stata fatta, quindi per il momento l'auditorium è chiuso e diciamo noi da su, che perché appunto ci collochiamo su, proviamo, puntiamo, guardiamo verso il basso e ci proponiamo insomma di fare delle azioni forse anche un po' più incisive. Dicevi che è chiuso, però hai dato un appuntamento, quello dell'11 maggio. Sì, al Teatro San Ferdinando c'è il debutto di Arrevoto, al suo 14° anno di vita, che porta in scena 150 ragazzi da tutta la città, creando una contaminazione appunto teatrale, culturale, pedagogica, eccetera, quindi italiani, rom, capoverdiani, srilanchesi, tutti si uniscono in questo. Quindi spettacolo. Ricordiamoci dell'appuntamento dell'11 e 12 maggio. 11 e 12 maggio al Teatro San Ferdinando, che non è un teatro qualsiasi. No. Non è un teatro qualsiasi. Però abbiamo anche un altro appuntamento a maggio, vero? C'è l'altro appuntamento, c'è il Festival delle Cucine in Movimento. Allora, per chi lavora sul territorio. Ritorniamo all'Assemblea delle Cucine, al loro lavoro sul territorio, al loro impatto. Ecco, loro a maggio, voi a maggio, che cosa ci proponete? Quali sono i contenuti? Quando? Dove? Chi e cosa? Però facciamolo sentire. Ci siamo, le cucine ci sono e iniziamo già da sabato. Noi sabato siamo al Giardino Liberato, abbiamo con il presidio di salute solidale di Santa Fede Liberata organizzato un laboratorio di nutrizione, che è il terzo appuntamento, ma faremo un laboratorio pratico sul pane e sulla produzione di pane, perché è proprio un alimento secondo me da cui ripartire. Il 5 maggio a Santa Fede invece abbiamo l'incontro con la rete di produttori autonomi. Il 12 maggio ci sarà la festa del Friariello, tradizione ormai di Mater Dei, a cui parteciperemo con il Giardino Liberato. E poi abbiamo il 24 la festa della Polpetta, sempre a Santa Fede, che sarà anche il momento in cui il giorno dopo, poi il 24 accoglieremo le cucine che vengono da tutta Italia, perché il 25 e il 26 c'è il Festival delle Cucine a Napoli, che giunge alla sua quarta edizione dopo Roma, Bologna e Pesaro, e inizierà con un'accoglienza il venerdì sera, e il sabato discuteremo insieme di alcuni argomenti che hanno contraddistinto le edizioni del festival e tematiche che comunque contraddistinguono l'azione delle cucine che parteciperanno. Quindi come si organizzano i tavoli, saranno sull'organizzazione delle cucine, quindi quello che di tutte le tematiche di cui parlavamo prima, l'autogestione, la non gerarchia, ma anche di come si possono, da dove prendono le materie prime le cucine, quindi come si approvvigionano, e anche un tavolo sull'antispecismo, e un altro interessante e sarà quello sullo sfruttamento di lavoro all'interno del settore della ristorazione, di cui abbiamo anche parlato prima. E il giorno dopo invece ci rimbocchiamo le maniche e siamo in piazza a cucinare, perché crediamo, come dicevamo prima, che cucinare in piazza in una città come Napoli, che è vittima del turismo e dell'industria del cibo a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, che sfrutta le persone, che dà a mangiare cibi dannosi e nocivi, e che quindi va a creare esistenze malate, cucinare in piazza prodotti sani in una maniera anticapitalista e assolutamente libera è la cosa in questo momento più giusta da fare. E in quella piazza ci sarà Radio Plaza. Eh sì, quindi ci rivedremo noi il 26 con la puntata di Radio Plaza insieme per il Festival delle Cucine. Avete dato tantissimi appuntamenti, quindi li ricordiamo: il 4, il 5, il 12, il 24, il 25 e il 26. Sono persa qualcosa? Abbiamo fatto pure maggio. Mangio in movimento. Quella cosa. Okay. C'è un bel gioco. E intanto andiamo avanti e ci ascoltiamo Nai Baisado Zapatero, Stefano Bollani, Bollani Carioca 2007. E sul brano poi una sorpresa. Di Radio Plaza. Thank you. l'aumento salariale che mi era stato promesso? Vede, signor Esposito, la crisi ci impedisce di riconoscerle ciò che pure avrebbe meritato. Per lei e la sua famiglia, però, abbiamo pensato a un ticket che le consentirà l'accesso ad una delle tante spa del nostro circuito. Sembra un sogno, o meglio, una conversazione estratta da un racconto di fantascienza, eppure è ispirato alla produzione di un ordinario dialogo tra datore di lavoro e operaio dei nostri giorni. Il salario, che era nell'impostazione classica la misura del costo del lavoro che l'imprenditore doveva sostenere per assicurare, la prestazione di lavoro si trasforma in un accessorio, in un benefit, in un buono da consumare. Senza entrare nel merito di complicate dissertazioni filosofiche, siamo di fronte ad un cambiamento epocale. Il tempo smette di essere denaro e diviene chiave di accesso ad un ampio ma non richiesto bouquet di servizi. In altri termini, studio per qualificare me stesso, arricchisco il mio bagaglio culturale e la mia capacità di operare sul mondo per essere appetibile al mondo del lavoro, ma piuttosto che percepire per questo un salario, mi vengono dati in cambio analisi cliniche gratuite, voucher per parchi gioco e buoni carburante da utilizzare nei modi e nei tempi connaturati ai titoli emessi. Questo delicato processo, che pure contiene i suoi vantaggi pratici, le sue belle opportunità, nasconde però insidie e derive pericolosissime che meriterebbero vertenze sindacali, dibattiti istituzionali, titoli di giornali ed approfondimenti culturali di cui non troviamo traccia nelle nostre cronache quotidiane. Il fatto che questa enorme rivoluzione nei rapporti tra lavoratori e imprenditori passi sotto silenzio la dice lunga su quanto siamo confusi e disorientati dall'accesso di informazioni cui siamo soli esposti. Più si moltiplicano le fonti e le opinioni, meno comprendiamo ciò che di fatto sta accadendo alla nostra quotidianità. Più si parla di globalizzazione dei mercati, di crisi economica e monetaria, meno siamo in grado di riferire a noi stessi dei disagi e delle recriminazioni che pure sentiamo vive nelle remote periferie della nostra conoscenza. La flessibilità del mondo del lavoro, che per tanto tempo ha impegnato la sinistra progressista del nostro paese, rivela oggi il suo vero volto ed il suo vero nome. La precarietà è stata definitivamente sdoganata ed accettata come un dato ineluttabile. Ne consegue che qualsiasi contropartita ci venga offerta può essere valutata come favorevole. Meglio poco che niente, dicono gli opinionisti, gli analisti dei sistema, gli intellettuali, ai quali purtroppo sempre più si uniscono le mamme e i papà dei ragazzi cui sono stati cancellati tutti i diritti. Primo fra tutti, quello di pensare ad un mondo in cui sia possibile prestare il proprio tempo, le proprie energie e la propria competenza in cambio di dignità, rispetto, diritti. Allora, rientriamo dopo la lettura fatta da Fab sulla realtà della fabbrica, di cui non avevamo parlato, ma che comunque è una visione interessante, visto che comunque non se ne parla. senza nomi e senza cognomi, però almeno diciamo che il titolo della cosa appena letta è C'era una volta il salario. Sì, c'era una volta il salario, quello che appunto a cui aspiravano gran parte dei lavoratori delle rivendicazioni dell'Ottocento. Comunque, passati tanti anni, volevamo ritornare un attimo su Chirom e Chinò per parlare di questa visione che in Europa hanno dell'Italia per quanto riguarda il rapporto fra appunto il territorio, l'Italia e le persone, i nomadi di etnia Rom, appunto l'Italia dei campi. Vogliamo chiarire un attimo questa situazione. Parla per noi Biagio. Allora, ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Giusto una piccola precisazione. Innanzitutto, non usiamo la parola nomadi perché i Rom non sono Rom nomadi, insomma, da tantissimi secoli forse. E il loro arrivo in tutta Europa, tranne che in Italia, si è trasformato in un vissuto che è stato quello dei campi Rom. L'Italia è l'unico paese in Europa dove esistono i campi Rom, quindi quando qualcuno immagina ai Rom in Italia pensa quasi immediatamente alla situazione dei campi che vediamo insomma in tutte le periferie delle nostre città. E quindi insomma ci teniamo a precisare che questa è un'anomalia solo italiana e che i Rom in Italia, che sono scappati dalle guerre di Jugoslavia, hanno trovato l'unica sorte, quella dei ponti, insomma, è quella di auto-organizzarsi in comunità. Perfetto, ti ringraziamo, ovviamente vi ringraziamo per aver partecipato a questo tavolo. Ricordiamo che al tavolo con noi ci sono stati chi Rom e chi no, con questa precisazione importante, grazie mille. E l'Assemblea delle Cucine, e campane, però l'Assemblea delle Cucine campane, è vero, c'è ma non c'è, ma c'è Fab, e al telefono ci sono stati il Walter di Campagne in Lotta, e poi abbiamo parlato con Eugenio dell'Unione Sindacale Italiana, un sindacato libertario. Chiudiamo con un giochino, così un giochino finale veloce. Chiudiamo con un giochino, se l'Assemblea delle Cucine campane e se chi Rom e chi no fosse un piatto, che piatto sarebbe? Quali ingredienti avrebbe dentro e a chi lo proporreste? E non a un piatto banale. Intanto ci pensiamo anche noi. Noi lo siamo. Sicuramente 15 non secondi. Plastica. Sicuramente non un piatto di plastica. Non un piatto di plastica. No, noi parlavamo di pietanza in quanto piatto. Chiaro, era chiaro. Vi stiamo dando un po' di tempo per pensarci. Pensateci. Verza, una foglia di verza imbottita, con che cosa la possiamo imbottire? Al microfono, con cosa la imbottiamo? La verza? La verza la possiamo imbottire con un chilo di fantasia, un quarto di comunità, mezzo chilo di stima, tantissima utopia. Cioè, rubato l'ingrediente, noi no, che ci mettiamo? No, ma noi l'utopia ce l'abbiamo. Noi da utopia metteremo tanta paprika, va bene? Paprika, e poi cos'altro ci mettete? Che è piccante e dolce allo stesso tempo. Mezzo chilo di coraggio. All'oro, secondo me, che è una cosa che mi piace tantissimo. All'olio, il coraggio all'olio, grazie. Ci piace. All'oro, l'alloro, l'alloro. Vabbè, c'è chi dice che quando le cose vanno male in cucina aggiungi olio. E un pizzico di sale su questa puntata di Radio Plaza, primo maggio 2019, quarta edizione di Occhio all'ingranaggio, primo maggio Occhio all'ingranaggio. Grazie mille a chi Rom e chi no, grazie mille all'Assemblea delle Cucine Campane, grazie mille a Fab, grazie mille a tutti quelli che hanno realizzato e hanno appunto fatto sì che questa puntata si potesse realizzare, quindi grazie a Ferdinando, ad Antonio e Mario che ci accompagnano ormai da molti anni in questa avventura. Grazie a Peppone che oggi è il compleanno, ricordiamo. E che ha portato Peppone è uno dei fondatori di Radio Plaza, oggi compie gli anni come tutti gli anni, come ogni anno, il primo maggio puntualmente Peppone. Non vuole cambiare stabilità. Compie gli anni, no, non vuole. Ricordiamo cambiarlo. Che dopo la puntata, la fine della puntata ci siamo, è finita, c'è lo spettacolo, c'è uno spettacolo teatrale. Chi altro possiamo ringraziare? Possiamo ringraziare Maria Pia, Anna Maria, possiamo ringraziare Koinè che è presente in piazza. Aisha libera. E li ringraziamo su questo brano, lo so, non si parla sui questo brani. Questo brano ma bellissimo. Other Profile, parte prima, Soft Machine, Bundle 1975, Radio Plaza. Buon primo maggio a tutti e tra poco c'è il concerto, non andate via e chiamate prima tutti. Prima il teatro, signori, il teatro. Ancora nel pomeriggio c'è ancora il teatro con il sogno di Ilse. Il sogno di Ilse è un progetto di sperimentazione espressiva ed emotiva fondato sull'interazione di diverse componenti artistiche quali la musica, il teatro, la danza, la mimica, la fotografia, ed è un progetto che raccoglie e valorizza la divergenza, la diversità, la coralità, spesso anche dolorosa, dell'essere. Oggi ci presentano lo spettacolo Partenope morta a mare, che insomma è uno spettacolo che si richiama ai recenti fatti di cronaca, ovviamente ponendo in rilievo il tema sempre più vivido e vivo della migrazione, ma loro l'obiettivo è quello di narrare la storia del Mediterraneo come mare madre, culla di popoli e culture, abbraccio accogliente troppo spesso tradito dalla crudeltà e dall'arroganza umana. E allora disordiniamoci e riorganizziamoci e occupiamo gli spazi che possiamo occupare, e questa è Radio Plaza, vi salutiamo? Vi salutiamo! Vi salutiamo! Buon Ciao, primo buon maggio! Buon primo maggio a tutti! Ciao Radio tutti. Plaza! All'anno prossimo!